2024 2024 di Enrico Pagliarini. Buon pomeriggio, inizia una nuova puntata di 2024, come la tecnologia ci cambia la vita. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Chiamateci in diretta, il nostro numero verde 800 24 00 24. Oggi le nostre sigle, i nostri stacchi sono guidati da Roberto Scaltritti, che si occupa della parte tecnica. In questa puntata, come avete sentito, ascolteremo tra poco un'intervista che è stata molto emozionante con l'inventore del microprocessore. Non so quanti sanno che è un italiano che 40 anni fa, in un laboratorio della Intel, naturalmente a capo di un team, non da solo, però ha guidato la realizzazione di questa innovazione incredibile. Allora, tra poco sentiremo la voce di Federico Faggino. Adesso invece partiamo da Bassano del Grappa. Ah, parentesi, oggi per una serie di coincidenze parleremo molto della provincia di Vicenza, perché siamo a Bassano del Grappa, provincia di Vicenza. Faggino è nato in provincia a Vicenza e poi si è trasferito negli Stati Uniti, ma insomma è una coincidenza particolare. Allora, dicevo, siamo a Bassano del Grappa, poco più di 40.000 abitanti. Ieri c'è stato il lancio ufficiale di una nuova rete Wi-Fi che copre gran parte del centro cittadino, i palazzi, gli edifici pubblici. È gratuita, non ci sono limiti di tempo per utilizzarla, e fin qua voi direte: beh, ci sono altre reti. Beh, questa è particolarmente capillare, ma soprattutto non è costata nulla al comune, alla collettività, perché l'investimento per costruire questa rete di 50 hotspot e per mantenerla è stato finanziato da Renzo Rosso, il fondatore della Diesel. La rete infatti si chiama D-Spot, dove la D sta per Diesel, l'azienda di abbigliamento conosciuta in tutto il mondo, che ha sede a pochi chilometri da Bassano. Oggi vogliamo lanciare un progetto secondo me molto unico, perché abbiamo questo wifi free in tutto il centro storico della città. Un progetto unico, è il più grande che sia mai stato fatto privatamente in Italia e penso anche in Europa. Io penso sempre ai giovani, quindi ai giovani. I giovani sono stati il segreto del mio successo, il segreto delle nostre aziende, loro che danno il sangue fresco, l'energia, le nuove idee, la visione. Mi auguro che Bassano con questo possa essere una città simbolo per tante altre città che lavorano, ripeto, tanti altri imprenditori che vorranno seguire le nostre orme. Ecco, perché un imprenditore investe denaro per mettere a disposizione un'infrastruttura in una comunità? Mi definisco più che un filantropo, un imprenditore moderno. Quindi penso un imprenditore moderno si deve in qualche modo non sostituire alle istituzioni, e penso che una civiltà moderna, l'imprenditore che crea profitto grazie comunque alle persone che lavorano nelle aziende, in qualche modo debba tornare quello che ha ricevuto dal contributo di queste persone. Questo progetto avrà degli sviluppi? Sì, adesso parte nella città di Bassano, però noi lo porteremo subito, già da domani mattina cominciamo nei negozi in Italia, quindi in tutti quanti i nostri negozi e in tutti quanti i nostri negozi del mondo. Uno potrebbe domandarsi: ma perché in un negozio che vende abbigliamento ci deve essere il wifi? Perché puoi parlare, dialogare, puoi avere il contatto, puoi mandare messaggi, puoi far vedere tante altre cose che non ci sono all'interno del negozio. Poi il negozio non deve essere visto solo come un punto dove uno fa della vendita, ma deve essere visto come un punto dove qualcuno socializza, dove qualcuno crea interazione. Stiamo vedendo i dati, per esempio, delle vendite via internet stanno aumentando in maniera esponenziale presso tutte quante le aziende, anche perché oggi l'acquisto vero e proprio può avvenire via rete oppure negozio indifferentemente. C'è chi vede i prodotti nell'iPad, o c'è chi li vede in negozio e poi se li ordina a casa, o all'incontrario. Quindi è un aiuto in una società moderna, in una struttura moderna per fare business. Se avete fatto caso, Renzo Rosso ha lanciato un invito agli imprenditori italiani a replicare questo progetto. E visto che l'Italia è ancora fortunatamente ricca di imprenditori di successo in molte province, beh, speriamo che questo invito venga raccolto, anche perché pensiamo che sia più semplice, anzi non pensiamo noi, insomma, è più semplice realizzare una cosa del genere in provincia piuttosto che in una grande città dove le cose si complicano molto. Allora, se siete imprenditori e vi è venuta un'idea, un po' di voglia, beh, chiamateci magari il nostro numero verde 800 24 0024, anche se siete interessati, volete fare una considerazione su questo progetto, su altri che esistono, di imprenditori naturalmente che fanno quello che dice Rosso, cioè restituire parte della ricchezza al territorio che ha contribuito a crearla, ce ne sono molti. Si tratta solo di riconsiderare le priorità, e la diffusione di internet dovrebbe diventare una delle nostre priorità come sistema paese. Va detto che non dobbiamo pensare che col wifi si risolva tutto, l'obiettivo rimane cominciare tra poco, tra almeno il più velocemente possibile, a costruire nel medio periodo un'infrastruttura, una rete in fibra ottica che raggiunga la maggior parte delle case in ambito urbano, ma sicuramente la diffusione di nuvole wifi, chiamiamole così, che coprono le città è utile per vari motivi. Beh, innanzitutto sono veloci da realizzare. A Bassano ci hanno messo alcuni mesi, invece per posare fibra ottica, insomma per fare un progetto di questo tipo, i mesi non bastano, ci vogliono anni. Sono abbastanza economiche, una città come Bassano si copre con alcune centinaia di migliaia di euro, ma solo per iniziare, e la rete è stata, tra l'altro quella che è stata costruita a Bassano è molto robusta, fatta per funzionare bene anche con molti utenti. Serve per soddisfare un bisogno degli utenti, soprattutto i più giovani, serve anche per diffondere la cultura e l'uso di internet. Ma torniamo a Bassano, come è fatta questa rete? Stefano Rosso. Ma è una rete che dà una copertura quasi totale a tutto il centro storico e alle aree adiacenti di maggiore importanza e rilevanza, come la stazione ferroviaria e i parchi pubblici. È una rete che ha oltre 50 antenne, che quindi dà una copertura non parziale di alcune zone, ma una copertura completa dell'area presa in considerazione. Bassano può vantare, a nostro avviso, la copertura probabilmente più completa del proprio territorio di tutte le città d'Italia. Questa è una rete gratuita, completamente illimitata, non ci sono limiti? Non ci sono limiti, è gratuita, un accesso estremamente facile, una rete anche estremamente veloce, grazie a Fastweb che ci supporta in tutto questo. Devo essere registrato? Sì, bisogna essere registrati, ma la registrazione è una registrazione banale, basta il proprio indirizzo email al cui vengono spediti password e link d'accesso, niente di più. A chi avete pensato costruendo questo progetto? Banalmente abbiamo cercato di coprire un bisogno che era nostro, quindi un bisogno personale. Abbiamo detto sarebbe bellissimo poter navigare liberamente in tutta la città. E da qui è nata l'idea di dare questa opportunità ai cittadini, ai turisti, a tutti quelli che visitano Bassano. Noi siamo innamorati di questa città, ci ha dato molto e di conseguenza è un regalo che abbiamo deciso di fare in maniera molto spontanea, sperando che poi ovviamente il servizio sia all'altezza di quelle che sono le nostre aspettative. A questo punto vi invitiamo a fare una gita a Bassano per provare questo nuovo servizio. Adesso vi proponiamo l'intervista che vi ho annunciato poco fa. Il 15 novembre del 1971, quasi 40 anni fa, la Intel lanciava ufficialmente il primo microprocessore della storia. A capo del team di sviluppo di questo prodotto c'era Federico Faggine, nato a Vicenza nel 1941, ma poi assunto molto giovane alla Intel a Santa Clara in California. Per molti Faggine dovrebbe ricevere il premio Nobel. Intanto lo scorso anno ha ricevuto dal presidente Barack Obama la medaglia che gli Stati Uniti assegnano agli inventori che hanno dato un contributo al paese. Ecco come Faggine, in questa intervista che abbiamo realizzato poche settimane fa, ricorda l'atmosfera che si viveva nei laboratori di ricerca nel 1971. 40 anni fa si intuiva che la tecnologia dei semiconduttori stava progredendo così rapidamente che sarebbe stato possibile, in un tempo non molto lontano, di creare un'unità centrale di un calcolatore elettronico in un singolo chip. Già c'erano stati nel 68, nel 69, soprattutto dei tentativi di fare una unità centrale in 3-4 chips. Però il vantaggio importante era di fare tutto in un chip, perché allora il microprocessore sarebbe stato molto più veloce e anche molto meno costoso. L'opportunità si presentò all'Intel di fare appunto questo. Era un cliente giapponese, la Busicom, che voleva una serie di circuiti integrati per fare delle calcolatrici da tavolo di vario tipo, e due persone di Intel, il Ted Hoff e Stan Meisel, hanno pensato che era possibile modificare l'architettura di CPU di unità centrale che aveva sviluppato la Busicom e renderla più semplice usando memorie RAM invece che delle memorie seriali che intendeva usare il cliente giapponese. Con questo loro hanno proposto un'architettura più semplice e pensavano che fosse possibile magari anche farla in un solo chip. Però loro, non essendo progettisti di circuiti integrati, non conoscendo come in realtà realizzare una cosa del genere, la cosa era rimasta lì, insomma era rimasta lì per 5-6 mesi, finché non fui assunto io all'Intel, e siccome io avevo sviluppato nella ditta precedente, la Fairchild Semiconductor, la tecnologia di base che si chiama Silicon Gate Technology, che permetteva di fare circuiti integrati che erano 5 volte più veloci e 2 volte più densi, cioè si potevano mettere nelle stesse dimensioni 2 volte più transistori, io, usando questa tecnologia e creando la metodologia di progetto, sono riuscito a farci stare in un chip questo dispositivo, e quindi a creare un nuovo mercato, perché una volta che uno poteva fare questo dispositivo in un chip, uno poteva creare piccoli computer che potevano essere applicati ovunque. E da lì è sorto tutta la direzione nuova dell'industria. Oggi ovviamente il microprocessore ha centinaia di migliaia di applicazioni e se ne vendono dal 20 a 30 miliardi di pezzi all'anno. La sera in cui nacque, diciamo, il processore, lei uscì dalla Intel, era a Santa Clara, giusto? Sì, non era sera, a dire la verità, erano le 4 del mattino, perché io ho ricevuto i primi campioni del 4004 in gennaio del 1971, verso la sera, e ho speso gran parte della notte a fare le prove. Naturalmente ero estremamente nervoso, perché a quel tempo avevo già progettato 3 altri circuiti integrati che facevano parte di questa famiglia, e l'ultimo che rimaneva era il microprocessore, il CPU, l'unità centrale. E man mano che facevo le prove e tutto sembrava che funzionasse, cioè funzionava come l'avevo progettato, il nervoso e l'ansia che mi tormentava si trasformavano in entusiasmo, sì, un senso di trasporto, di contentezza. Ecco, infatti la domanda è: quella mattina, quell'alba, quella notte, diciamo, lei aveva già capito e compreso le conseguenze di quella cosa? Beh, quella notte, diciamo, non quella notte in particolare, ma da quando partì quel progetto, io ero sicuro che il microprocessore avrebbe cambiato il mondo. Però devo dire che avevo immaginato e pensato una piccola frazione di tutte le cose che poi sono successe. In realtà sono stato io stesso sorpreso dalle profonde trasformazioni che sono avvenute in 40 anni, e soprattutto la cosa che non era difficile capire era l'impatto sociale. Cioè io potevo, per esempio, avevo già immaginato che la gente avrebbe avuto, molte persone avrebbero avuto un computer da tavolo, tipo un personal computer, con cui avrebbero fatto le cose più svariate, eccetera. Ma non avevo mai immaginato tutte le possibili applicazioni che il personal computer avrebbe avuto nel corso degli anni. Per non parlare del telefonino, a quel tempo l'idea del servizio cellulare, per esempio, se era nata, non era certamente ancora applicata e non era pubblica, diciamo, per cui nessuno generalmente pensava che fosse possibile avere servizio di massa usando wireless, usando onde elettromagnetiche, perché lo spettro delle onde elettromagnetiche non avrebbe permesso di avere centinaia di milioni di utenti. E invece, riusando quelle frequenze, fu possibile fare il servizio mobile cellulare, e questo che divenne realtà all'inizio degli anni 80, nel giro di meno di 30 anni ha cambiato il mondo. Senta, nella Silicon Valley alcune invenzioni non sono state immediatamente apprezzate dal management. Intel è un'azienda che è sempre stata gestita da ingegneri, quindi da gente che ci capisce. In quel caso tutti capirono o ci fu qualche difficoltà? Beh, all'inizio l'idea che un computer potesse fare meglio le cose che si facevano prima con circuiti custom, cioè una logica che era adattata allo scopo e poteva solo fare quel tipo di prodotto, mentre un computer si adatta con il software. Ecco, questa idea non era capita dalla maggior parte delle persone. Tra l'altro allora anche il computer era un oggetto che non veniva usato da tutti in grande misura, no? Era un oggetto che veniva usato per certi scopi e basta. Quindi solo alcuni, una piccola percentuale di persone, capivano il potenziale di un computer che fosse piccolo e poco costoso e con poca potenza dissipata, e quelli furono i primi ad adottare il microprocessore poi nei loro prodotti. La maggior parte della gente non aveva, insomma, era diciamo indifferente. Ecco, alcuni erano ostili. Per esempio c'era il presidente di una ditta che faceva circuiti custom, il quale ha addirittura dichiarato che chi crede che il microprocessore, che usando un piccolo computer, non si usava ancora la parola microprocessore, che crede che con questa tecnica sia possibile spiazzare i circuiti custom è fuori di testa, no? E naturalmente due anni dopo ho provato che aveva sbagliato, no? E questa era una persona, anche lui un ingegnere, ma non aveva capito veramente il potere del microprocessore. Del resto anche l'Intel ho dovuto lottare perché introducessero questo prodotto nel mercato generale, perché all'inizio il prodotto era stato fatto soltanto esclusivamente per la Busicom, questa ditta giapponese, e quindi poteva essere solo venduto alla Busicom. Io però ho capito il potenziale anche di quel primo dispositivo, che era abbastanza limitato, il potenziale per applicazione di controllo, non per applicazione di calcolo, e ho voluto dimostrare al management dell'Intel questa capacità usandolo per un tester, un prodotto che ho fatto all'interno dell'Intel, in cui ho usato la 4004, il primo microprocessore, per fare l'unità di controllo di questo tester. E così ho imparato, ho capito come si poteva insegnare al cliente ad usare il microprocessore, perché l'ho dovuto usare io e con questo fare il primo questo prodotto. E in secondo luogo ho dimostrato che questa era un'applicazione di controllo e non di calcolo, e che veniva molto più facile fare così con software invece che facendo hardware, no? Facendo circuiti dedicati. E questo è stato molto importante, perché l'Intel hanno così capito la direzione nuova e hanno deciso di tirarsi fuori dall'esclusività con la Busicom e a introdurre nel mercato il primo microprocessore. Diciamo che l'Intel sicuramente l'avrà ringraziata, ma devono continuare a ringraziarla. No comment. Senta, in questi 40 anni, sì. Lei poi dopo è stato per un po' in Intel, poi ha fondato altre aziende, ha fatto tante altre cose, anche in altri ambiti, sempre tecnologia, ma anche in altri ambiti. Quali sono, a suo parere, gli episodi, gli incontri più interessanti, sia dal punto di vista tecnologico, professionale, in Silicon Valley? Beh, la Silicon Valley è un po' è una fucina di idee, di novità tecnologiche, novità di marketing e così via, per cui è quasi quasi uno neanche ci pensa, cioè perché va al ristorante e sente parlare di cose tecniche dell'altro tavolo, va da amici e lavorano, molti di questi lavorano nell'industria di semiconduttori, nel personal computer, nel software o quello che è. Per cui è una cosa, è una goccia continua, no? Una goccia continua. Comunque, se ci penso un attimo, una delle cose che una delle idee che mi aveva affascinato a un certo punto era l'idea dell'ufficio senza carta, no? Non tanto perché credessi che la carta sarebbe sparita, ma perché questa idea conteneva in sé il nucleo di molte delle cose che poi sono successe, no? Il fatto che la posta elettronica, per esempio, che ormai la usiamo senza neanche pensarci, ma la posta elettronica ha cominciato ad essere di casa con internet, quindi parliamo di 20 anni fa, e prima no, prima si usava la posta normale, oppure il fax, oppure prima ancora si usava la telescrivente, e prima ancora si usava il morse, il codice morse, no? Questa idea mi ha affascinato al punto che l'ho sviluppata ulteriormente, e poi ho creato una ditta che si chiamava Signet Technologies, che ha creato un dispositivo, era un telefono intelligente, però era per voce e anche per dati, che si collegava a un personal computer che permetteva all'utente di comunicare in maniera molto efficace ed efficiente. Molte delle cose che avevamo implementato allora oggi si trovano nei telefonini intelligenti che uno si porta dietro, no? Per dire. Però allora erano novità assolute. Altre cose che mi hanno interessato, le prime applicazioni dei CCD che hanno permesso di fare le macchine fotografiche digitali, e poi quello che mi ha impressionato è vedere la rapidità con cui da un certo punto in poi, all'inizio il progresso era piuttosto lento, ma da un certo punto in poi la tecnologia delle macchine fotografiche digitali è maturata così rapidamente che nel giro di 5 anni praticamente sono sparite le macchine fotografiche a film. E a partire proprio da metà anni 2000 c'erano macchine fotografiche che cominciavano a essere uguali o superiori a quelle a film, poi più avanti sempre meglio, e da quel punto in poi chi è che vede una macchina fotografica a film in giro per la strada? Non più, sì. No. Fino ai primi anni 2000, per esempio, la ditta più grossa di macchine fotografiche a film e di film era la Kodak. La Kodak erano imperterriti che le macchine fotografiche digitali non avrebbero mai preso il sopravvento sulle macchine a film. Guarda un po', 10 anni dopo non se ne parla neanche di film, i ragazzi non sanno neanche che esistesse il film, no? Ecco. 2024. Riprende questa puntata di 2024, io sono Enrico Paglierini, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, il nostro numero verde per chiamarci, per parlare con noi tra poco in diretta, e direte voi, ma di che cosa? Beh, prima vi abbiamo proposto alcuni temi e sicuramente oggi vorremmo anche il vostro parere sulla velocità con cui cambia la tecnologia. Troppo veloce o tutto ok? Gianfranco Giardina, uno dei nostri esperti 2024 ed è direttore responsabile del magazine digitale online dday.it. Bentornato, benvenuto, ciao Gianfranco. Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori. A volte mi vengono dei dubbi, dico magazine digitale, magazine, potremmo anche non dire più digitale online. Oramai chi non è digitale non è, direi. Non è, sì, esatto. Dunque tu... penso che si possa dire, perché tu hai scritto ampiamente su dday.it, sei appena tornato da poco, da una settimana, dalla Cina. Sì, assolutamente sì. Allora, noi in questa puntata stiamo ascoltando un'intervista che ho realizzato con Federico Faggin, sai chi è? Come no? Ecco. Però è vero che molti non sanno chi è Federico Faggin? Molti, cioè, diciamo, tra gli addetti ai lavori lo sanno tutti. Beh, quasi. Quasi tutti, diciamo. Là fuori, come dico io di solito, per dire, fuori dai nostri uffici, fuori dai laboratori, è molto meno famoso. Sì, anche sì. Qui si innesca un'altra delle grandi polemiche degli ultimi tempi, no? Steve Jobs, che è recentemente scomparso e... creando e generando il cordoglio di tutta la comunità, non solo tecnica, scientifica, ma direi tutta la comunità. Sì. E molti dicevano, sì, calma, però ci sono molte altre personalità che sono scomparse nel silenzio. Esattamente, eppure hanno inventato che ne so. Anzi, hanno proprio inventato delle cose da zero. Sì, sì, questo è un dibattito interessante. Beh, se volete potete chiamarci anche su questo. No, dicevo, visto che tu sei tornato dalla Cina, una delle domande che io ho fatto a Federico Faggin è in questi anni in cui alcuni dicono che il baricentro, comunque alcuni baricentri si stanno spostando, a proposito di tecnologia, dagli Stati Uniti alla Cina, ma più in generale all'Asia, ho fatto proprio una domanda sulla Silicon Valley, visto che Faggin vive ancora in Silicon Valley, adesso ha una fondazione che finanzia il mondo della ricerca tecnologica. Sentiamo la sua risposta. Beh, la Silicon Valley continua a essere un motore di innovazione tecnologica e anche di nuovi trend di mercato e non ha mai smesso di fare questo a partire dalla fine degli anni 50, in parte perché negli ultimi 50 anni si è creato un ecosistema importantissimo che include persone, migliaia di persone che hanno fatto partire ditte di startup, cioè ditte di alta tecnologia che partono da zero. Quindi hanno esperienza di come si crea una ditta, come si gestisce, come finanziarla e così via. I venture capital che hanno i fondi per finanziare queste ditte. Un enorme numero di strutture locali che danno supporto per tutti i vari servizi necessari alle ditte di startup. Ingegneri di grandissima qualità che sono a disposizione e conoscenze di mercato, per cui questo ecosistema continua a produrre nuove idee, nuove tecnologie, nuovi trends, e io sono estremamente ottimista perché ho visto rinascere in un certo senso la Silicon Valley almeno 4 volte e rinascere più forte di prima, perché non hanno mai abbandonato l'eccellenza nelle ondate precedenti tecnologiche. Per esempio la Silicon Valley è ancora numero uno nel campo dei semiconduttori, che è stata la prima ondata, il primo flusso di idee, il primo flusso di startups e così via. Non ha ancora abbandonato i personal computer, infatti la ditta più grossa dei personal computer è la Hewlett Packard, no? Però guardiamo la Apple, che ha saputo reinventare non solo il personal computer, ma soprattutto reinventare il telefono intelligente e creare un nuovo trend di mercato che sta veramente cambiando il mondo. Ecco, naturalmente è vero che il baricentro del manufacturing si è spostato già senza eccezione quasi in Cina, in India e nel sud-est asiatico. Però il baricentro creativo, il baricentro di idee, il baricentro di eccellenza di ingegneristica è ancora nella Silicon Valley. Naturalmente, se gli Stati Uniti perdono l'abbrivio, prendono il momentum, no, nel continuare a dare supporto alla Silicon Valley, alla lunga la Silicon Valley potrebbe perdere il suo primato rispetto ai nuovi paesi che stanno emergendo molto forti. Ma se questo avverrà, si parla di 20-30 anni, non si parla di breve termine. Lo Stato ha un ruolo importante o se ne sta quasi fuori? Beh, lo Stato ha un ruolo importante in assicurare certe cose, due cose in particolare. Una è attraverso il sistema di un mercato pubblico per le azioni, crea quella che si chiama la exit per le start-up, no? Cioè una start-up, una volta che ha successo, la ditta di start-up può essere quotata in borsa, essere venduta nel mercato azionario pubblico, e in questo modo i venture capital che hanno investito possono ritrasformare le azioni in soldi, no? E quindi continuare il processo innovativo, di investimenti sull'innovazione. Per cui questo è un ruolo importante del governo, a mantenere questa capacità di avere un mercato azionario che sia onesto e che sia molto attivo, perché altrimenti il ciclo virtuoso che esiste si arresta, no? La seconda cosa, la seconda area importante è di assicurare che ci siano abbastanza ingegneri e scienziati che possono alimentare la continua domanda che c'è negli Stati Uniti, ma soprattutto nella Silicon Valley. Ogni anno il governo emette dei visti speciali per ingegneri e scienziati che vengono da tutte le parti del mondo, e negli anni in cui le cose vanno molto bene il numero che permettono è molto più basso della richiesta. Generalmente verso febbraio-marzo è il tutto esaurito, e per il resto dell'anno non si trovano più ingegneri e scienziati. Questo purtroppo perché negli Stati Uniti molti scelgono di fare carriere più facili, e diventare un PhD in ingegneria o un PhD in fisica costa generalmente molto più fatica che non diventare un dottore in legge, no? E quindi c'è bisogno di un continuo flusso di gente di grande calibro per alimentare questo fenomeno. Molti citano questo periodo che stiamo passando come l'era post-PC. Quanto secondo lei questo è vero? Certo, alcune cose nei fatti effettivamente dimostrano che qualche cosa sta cambiando drasticamente, però alcuni addirittura dicono il computer è morto. Sì. Beh, quelli che dicono che il computer è morto penso che sbagliano, perché prima di tutto il computer si manifesta in molte incarnazioni, no? Il computer il computer sotto forma di iPod, se vogliamo usare le terminologie dell'Apple, nel computer nella forma di iPhone, il computer nella forma di iPad e il computer nella forma di personal computer portatile e così via. Più che è morto, sta cambiando forma? Diciamo che si sta, è come una radiation, no? In cui prende molte forme, perché ci sono molti più usi, man mano che l'utenza aumenta e la mobilità aumenta, ci sono molti usi. Quindi secondo me, per esempio, l'iPad serve molto per certe cose, ma ci sono altre cose che l'iPad non può dare, no? Per cui occorre sempre un personal computer. E cosa succede? Succede che una persona, invece di avere solo un computer, ne ha tanti, ha le varie incarnazioni e le usa a seconda delle necessità. Quindi io sono ottimista sul personal computer, però certamente la forma che il personal computer prende è sempre più la forma del notebook, no? Di quello portatile che ha la funzionalità però di un computer vero. 2024. Il nostro numero verde per chiamarci in diretta, per parlare con noi, è 824 0024, gli sms al 349 238 6666, se preferite potete mettere un messaggio nella nostra pagina Facebook, cercateci scrivendo 2024. Dunque Gianfranco, Federico Faggin diceva la Silicon Valley è ancora oggi una fucina di creatività. In effetti molte delle cose che stanno accadendo accadono in Silicon Valley, magari vengono prodotte altrove. Allora, tu sei tornato da poco in Cina, hai fatto un tour non turistico, però poi dipende dai punti di vista. Io mi diverto a vedere le fabbriche dove vengono prodotte le cose. Sei andato a vedere un po' di fabbriche, giusto? Perché, ecco, cosa sta adesso? Alcune cose le sappiamo già, ma in realtà le cose cambiano molto velocemente, quindi insomma è meglio tenere d'occhio quello che accade. Allora, qual è la situazione oggi? Ma allora, quello che dice Faggin è giustissimo, ma ha identificato un punto nodale, cioè la Silicon Valley è morta ed è rinata, si è rinnovata. Non è un mito che prosegue assolutamente identico a se stesso negli anni. Se prendiamo per esempio il settore dell'elettronica di consumo, è stato un settore profondamente giapponese, sia nella produzione che soprattutto nella progettualità. E tutti i grandi marchi erano tutti grandi marchi giapponesi, facevano la quasi totalità del mercato. Spostare la produzione dopo qualche anno corrisponde a spostare anche il know-how riguardo al prodotto, perché poi la produzione è troppo legata al progetto, è troppo legata alle tecnologie. Prendiamo un nome, Samsung, Samsung era uno dei più grandi terzisti, produttori di terzi, cioè per terzi, per marchi terzi, tipicamente per i giapponesi, prima di incominciare a lanciare il suo marchio fuori dalla Corea e diventare poi il colosso che è oggi. Ha imparato producendo. Acer, tanto per rimanere anche nel campo dell'informatica, era il terzista a cui Texas Instruments affidava la produzione dei propri Extensa, quindi della parte un pochino più bassa di gamma. È finito che Acer ha comprato Texas Instruments. E non la conosceva nessuno prima. No, assolutamente esatto. No. Ecco, quindi erano marchi che spesso non escono neanche dalla stessa nazione in cui operano. Foxconn, che oggi produce tutti i prodotti Apple in Cina, è una società che ha 1 milione di dipendenti. Quindi ripetiamo, 1 milione di persone che sono dipendenti. A fine mese paga 1 milione di buste paga, magari poco, ma le paga tutte. Le paga. Ecco, quindi queste sono realtà che non possono essere trascurate. Andare in Cina oggi, si scopre che la Cina è molto diversa da quella che ti aspetti. Ti aspetteresti una Cina un po' come siamo abituati a vederla noi, magari anche nelle Chinatown delle città occidentali, quindi disordinata, non sempre organizzata, magari non puntuale, cioè ti aspetteresti un po' di queste cose. Sono tutti luoghi comuni. I distretti industriali cinesi non hanno nulla a che invidiare ai nostri distretti industriali, in realtà. Nascono attorno a cittadine. Io per esempio sono stato a Wuxi, così si scrive, poi non so bene come si pronunci, ma che è una cittadina pressoché sconosciuta a 150 km da Shanghai, pressoché sconosciuta per noi, ma a 6 milioni di abitanti, e una decina tra istituti superiori e facoltà, tutte di carattere tecnico. Evidentemente, quello che diceva Faggin, l'altro punto fondamentale è la fame di ingegneri, di tecnici, di personale specializzato. Ecco, anche in Cina oramai partono dalla formazione delle persone, e le multinazionali sono spinte a creare delle realtà produttive in quelle aree perché sanno di poter trovare personale specializzato. Non a caso, per arrivare alla fabbrica Nikon, io ho visitato nel caso specifico la fabbrica Nikon, di fianco ho trovato la fabbrica Panasonic, una fabbrica Sony, una fabbrica Minolta, una fabbrica Kodak e così via, tutte nelle macchine fotografiche, tutte nell'ambito delle macchine fotografiche, perché quel distretto si è specializzato in termini di manodopera, di pensiero. Quindi vediamo che non è semplicemente l'avere manodopera a basso costo quello che guida la produzione verso queste aree, ma le guida all'interno di una Cina sconfinata di 1,5 miliardi di abitanti in quelle aree che sviluppano delle capacità del pensiero. Quindi anche ora qui è l'umano che fa la differenza. E i giapponesi hanno oramai perso in qualche modo il primato, quel primato e quella posizione di unico ente pensante per l'elettronica di consumo, che ormai si è spostata in Corea, ma i coreani fanno produrre in Cina, quindi tutto lascia pensare che presto si sposterà in Cina. Quindi dice anche la creatività? Anche la creatività, perché la creatività è strettamente connessa con la produzione. Apple, sicuramente, per fare il caso dove la creatività la fa da padrona, Apple dalla Silicon Valley pensa e produce. Progetta propri prodotti, però va a confrontarsi con i tecnici della Foxconn di sicuro per realizzare i prototipi, per vedere cosa è veramente realizzabile, cosa non è più realizzabile, e in qualche modo, in cambio di avere delle facilities produttive a basso costo, propaga il proprio know-how. È uno scambio inevitabile se vogliamo anche democratico, che permette in un lasso di tempo medio 5, 10, 15 anni a qualsiasi area organizzata che abbia un buon tessuto anche di terzisti, perché questo è anche molto importante. Ci sono alcune cose che devono essere prodotte in loco, e quindi che non ha senso produrre lontano, e quindi deve esserci anche un tessuto industriale locale. Quando queste condizioni si creano dei poli industriali, ce ne sono in Cina, ma ce ne sono anche nell'est europeo, che stanno nascendo molto bene, in Polonia, Repubblica Ceca, in Slovacchia, in quei paesi della fascia giusto a ridosso dei paesi, diciamo, più industrializzati, quindi Austria e Germania, che però possono beneficiare ancora di un costo del lavoro molto basso. Molto basso. E probabilmente, a proposito di tenere monitorate queste nazioni sul costo del lavoro, ci saranno entro pochi anni, insomma, dei cambiamenti piuttosto forti. Una cosa interessante che tu mi hai raccontato recentemente riguarda il clima e l'impatto che il clima sta avendo su queste grandi mega fabbriche, non solo in Cina ma un po' in tutto il mondo. No, nel caso specifico in Thailandia, se una persona è attenta anche a GR24 ne abbiamo parlato, in Thailandia da luglio ci sono stati più di 500 morti a causa delle inondazioni e ci sono fabbriche, beh, l'avete scritto anche su D-Day, fabbriche sì. sommerse che non funzionano più. Sì, tra l'altro non sono inondazioni simili alle nostre dove abbiamo di un giorno o due. Sì, abbiamo una struttura proprio orografica tale per cui arriva una piena di un fiume, ma in una zona montana o comunque scoscesa, l'acqua passa, distrugge ovviamente, uccide, ahimè, e passa. Queste sono grandi pianure che sono state inondate, per esempio, da grandi quantità d'acqua, che più di 2 metri di piena, che però scende di 20 centimetri al giorno. Quindi questa piena è durata 15 giorni, è durata molto, e solo adesso le fabbriche incominciano a riaffiorare. Da questi 2 metri d'acqua andranno completamente ripulite, completamente riattrezzate e dovranno ripartire. In questo caso, proprio perché poi le fabbriche non sono distribuite sul territorio a caso, ma vivono in questi distretti, in queste mini Silicon Valley, chiamiamole così, nel caso specifico sono state spazzate via una serie di fabbriche proprio di elettronica di consumo. Nikon, Sony, quella dei sensori, per esempio, che serve moltissime aziende, è stata oggetto di queste cose. Quindi tutto il settore, per esempio, della fotografia potrebbe avere qualche problema nei prossimi mesi. Si dice che la produzione in queste strutture non possa ripartire se non a febbraio-marzo. Questo unito anche a ciò che è accaduto qualche mese fa in Giappone, con lo tsunami, il terremoto e tutte le fabbriche che erano in quell'area, ha posto un nuovo problema, che per guadagnare, per catturare tutte le economie di scala, si è passato dagli stabilimenti distribuiti. Per esempio i TV una volta si costruivano in tanti posti nel mondo, anche gli stessi marchi. Philips aveva una fabbrica a Monza, e una fabbrica a Barcellona, e una fabbrica in Belgio, pian piano le ha chiuse tutte per riunirle, per catturare tutte le economie di scala. Mega fabbriche in pochi punti del mondo. Si finisce che in pochissimi punti del mondo, addirittura in uno o due punti del mondo, ci sia una fabbrica. Se questa fabbrica per un evento climatico viene, non dico spazzata via, ma semplicemente ne viene bloccata l'operatività per qualche mese, si hanno problemi e impatti anche sui conti economici delle società enormi. In più, spostandosi verso paesi con manodopera a basso costo, la produzione si è demeccanizzata, è diventata molto più, è ritornata a essere molto più manuale, che da un certo punto di vista vuol dire anche molto più accurata, attenzione, per alcune operazioni non di troppa precisione, però sicuramente l'uomo che pensa funziona meglio. E questo significa che se la produzione non è più così meccanizzata, le economie di scala non sono più così forti e si può anche ridistribuire sul territorio le fabbriche. È un po' quello che sta succedendo con i nuovi poli produttivi nell'est europeo, che stanno nascendo per avere una catena logistica che sia molto più vicina agli utilizzatori finali, perché oggi un prodotto che viene realizzato in Estremo Oriente, quindi nel sud-est asiatico, poi ci mette 2 mesi per tutte le procedure di consegna, sdoganamento, eccetera, eccetera. Arriva ovviamente via nave, è una cosa molto complicata. Certo. Dunque, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, che è 800 24 0024, gli sms al 349 238 6666. Nella prima parte, su questo argomento pensavo che molti ascoltatori si scatenassero di più, abbiamo parlato di un progetto molto interessante che è stato lanciato a Bassano del Grappa, una rete wifi che copre gran parte dei luoghi pubblici di questa cittadina, poco più di 40.000 abitanti, completamente finanziata dalla Diesel, quindi un dono che è stato fatto alla città, e abbiamo fatto anche una sorta di appello, lo ha fatto Renzo Rosso ma io l'ho rilanciato, cioè se ci fossero altri imprenditori sarebbero i benvenuti per lanciare reti wifi completamente finanziate dai privati, visto che la pubblica amministrazione fatica a trovare, a volte non capisce nemmeno l'importanza di internet, detto anche che appunto col wifi non è che risolviamo tutti i nostri problemi, ma è comunque un abbrivio verso un cambiamento. Sono le 16:27 minuti, ci fermiamo per qualche minuto per la pubblicità, riprendiamo tra poco. 2024. Le 16.30, questa è il 2024, una nuova puntata. Oggi abbiamo offerto un'intervista, a mio parere molto interessante, devo dire anche facendola molto emozionante, a Federico Faggin, che 40 anni fa inventava. Adesso poi naturalmente non è che uno si mette in un laboratorio e nel giro di poche settimane inventa, era a capo di un team che ha sviluppato, prendendo spunto anche da altre invenzioni e innovazioni fatte nei mesi e negli anni precedenti, però sicuramente tutti lo riconoscono nel mondo della ricerca e della tecnologia, che Federico Faggin è stato colui che ha realizzato il primo microprocessore della storia, che veniva annunciato dalla Intel il 15 novembre del 1971. Nella versione podcast che vi consiglio di scaricare, vi consiglio di abbonarvi, è gratuito l'abbonamento alla versione podcast di 2024, quindi potete scaricare il file MP3 tutte le settimane in maniera molto facile, semplice, automatica. Dicevo, vi proporremo l'intervista integrale, una chiacchierata molto interessante, anche simpatica e divertente con Faggin. Però a proposito di Federico Faggin, che è anche uno dei temi che vi vorremmo proporre in questa puntata, la domanda se la tecnologia è troppo veloce o tutto ok, va benissimo, riusciamo a tenere il passo. Sentiamo che cosa ci ha risposto proprio su questo punto. All'inizio ricordiamoci che il personal computer trattava solo numeri e caratteri in bianco e nero e basta, va bene. Dopo c'è arrivato il colore, poi la grafica, poi è arrivato il suono, poi è arrivato le immagini, poi il video. Insomma, un po' alla volta si è arricchito di tutti i tipi di carattere e adesso uno lo può usare come televisione, lo può usare come proiettore volendo, ha la macchina fotografica, uno può comunicare con il resto del mondo in Skype pagando zero, no, eccetera eccetera. Sono cose che sono straordinarie, se uno le guarda, se uno mi avesse detto il microprocessore 40 anni fa permetterà alla gente di comunicare in videoconferenza a $0 tra l'Australia e gli Stati Uniti, avrei detto tu sei matto. Lo dice Federico Faggin, quindi bisogna crederci. Dunque Gianfranco, è secondo te un problema, cioè esiste questo problema della tecnologia che va molto molto veloce? A volte io devo dire che, non dico faccio fatica, però tutti siamo un po' pigri e allora c'è una cosa nuova, uno deve dire adesso devo riconsiderare tutta una serie di cose, riorganizzare anche la mia vita, le cose che facevo prima. È un problema di pigrizia mentale o effettivamente la tecnologia è troppo veloce? Allora, la tecnologia ci ha abituato a delle velocità incredibili solo qualche anno fa, come dice giustamente Faggin. Il problema, cioè, e questo non può essere un problema, cioè il progresso tecnologico non può essere considerato un problema in nessun caso, se è progresso, se in alcuni casi è regresso. Abbiamo visto dei cosiddetti miglioramenti tecnologici che hanno per esempio peggiorato molto la qualità di riproduzione audio, per esempio. Ecco, questo non è un progresso, viene venduto come progresso tecnologico, ma in alcuni casi in questa forma non è un progetto. E il progresso tecnologico dovrebbe sempre portare verso un miglioramento della fruizione. E questo accade nel 99,9% dei casi, non voglio citare i casi in cui non è successo. Quando questo succede, non può essere mai considerato un problema. Il problema dove sta? Sta nel fatto che la frequenza di acquisto di molti prodotti da parte nostra non è così fitta. Il pane lo compriamo tutti i giorni, qualcuno lo mette nel congelatore e lo compra una volta alla settimana, ma almeno una volta a settimana andiamo dal panettiere. Se il panettiere cambia tipo di pane, ci spiega che pane ha nuovo e noi valutiamo se ci piace o se non ci piace. Nel giro di 2 mesi abbiamo già capito tutto. Invece, quando acquistiamo un televisore, la frequenza media di possesso di un televisore varia adesso, la durata media di possesso varia dai 5 ai 7 anni, vuol dire che ci approcciamo all'acquisto, diciamo, del televisore di casa principale, quello del salotto, una volta ogni 7 anni. In 7 anni sono uscite almeno 7 nuove gamme, perché oramai è in uso, è una necessità di marketing avere delle novità tecnologiche importanti ogni anno. Quindi sono uscite 7 generazioni di TV. Io che ho acquistato il TV 7 anni fa, quando mi approccio all'analisi del mercato, a vedere dei 200 modelli che trovo in negozio quale fa per me, trovo una sedimentazione di 7 anni di innovazione tecnologica, che è un'era geologica. Il TV non è più il TV di 7 anni fa. E allora cosa devo fare? O devo studiare tutto quello che è stato, non soltanto la tecnologia dell'ultimo anno, che è quella che trovo sulle pubblicità, perché quest'anno la pubblicità dice Smart TV, l'anno scorso la pubblicità diceva 3D, 2 anni fa la pubblicità diceva Full HD, e così via. Devo studiare tutto ciò, e quindi devo, nel caso per esempio dei TV, conoscere almeno cosa è successo al LED, cosa è successo al plasma, il 200 Hz, il 400 Hz, da conoscere tante di quelle cose che o mi sono tenuto informato o mi trovo davanti a un muro insormontabile per chi vuole semplicemente sapere come spendere correttamente i suoi soldi per vedere un programma televisivo. Quindi, da questo punto di vista, ci sono due velocità, e forse il famoso digital divide parte anche qui. La velocità di chi, per interesse personale, perché magari si è stufato di vedere la TV e quindi magari ascolta 2024 il sabato pomeriggio, si tiene informato anche se non è in prossimità di un acquisto, e questi non avranno mai problemi a seguire lo sviluppo tecnologico. Chi invece decide di non farlo e dedicarsi ad altro, poi vorrebbe avere il massimo comunque dalle sue tecnologie quando capita. L'esempio lampante di come questo processo però può essere governato meglio è Apple. Se noi guardiamo l'iPhone 4S recentemente lanciato, è di fatto una evoluzione dell'iPhone 4, tutti l'hanno riconosciuto, ma anche a partire dal nome, è il 4 Special, sì, esatto, tanto per intenderci, non è il 5, sì, sì, sì. Ok? Se noi guardiamo soprattutto il mercato negli Stati Uniti, ma in larga parte anche in Italia, i telefoni vengono dati praticamente dai gestori, sì, telefonici, che decidono poi di fatto anche il tasso di rinnovo. Sì, perché sono tutti contratti vincolati anche da noi, generalmente 24 mesi. Allora, 24 mesi significa che chi ha preso un iPhone 4 un anno fa non è un potenziale acquirente dell'iPhone 4S, o meglio, può anche esserlo se è un Tecno G che lo vuole a tutti i costi. Però normalmente questo telefono 4S è destinato a quelli che avevano il 3GS, quindi in qualche modo Apple, noi siamo certi che avesse nel cassetto il progetto nuovo e quindi un'innovazione tecnologica, ha deciso di tenerla nel cassetto perché a loro avviso il mercato non è pronto, se non dal punto di vista culturale, quantomeno dal punto di vista della capacità di acquisto, perché è vincolato a un piano tariffario a 24 mesi, per incamerare questa tecnologia. Molte volte, e qui veniamo forse a delle differenze territoriali di cui parlavamo prima, le aziende orientali non sono molto legate all'innovazione tecnologica di per sé stesso e quindi lanciano l'innovazione tecnologica non curanti della capacità del mercato di capirla e di assorbirla. Nei laboratori sembra tutto molto più chiaro, poi sul mercato invece la condizione è molto diversa. Sentiamo Antonino che ci telefona da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho ascoltato con molto piacere adesso quello che diceva l'ingegner Giardina sull'innovazione troppo veloce, eccetera. Io a casa mia non riesco a, mia moglie non riesce più a usare il televisore, non riesce più a usare il telefonino, mia moglie ha 65 anni e quindi il problema effettivamente esiste. Però questa sera io chiamavo per un'altra faccenda, per un altro motivo. Sì. E nel 1971, fine 1971 più o meno, adesso ricordo, posso ricordare male, noi lavoravamo in un team dove facevamo progettazione di un mini computer, forse era il primo mini computer che in Italia si provava a fare. Sino a quel momento solamente Olivetti aveva realizzato delle macchine a transistor, noi invece utilizzavamo già circuiti integrati utilizzando logica cablata, sistema logica cablata. Ebbene, in quel periodo bussò alla nostra porta il futuro, ma noi non ce ne rendevamo conto. Arrivò un certo ingegnere Accenti della Intel, che nessuno aveva mai sentito nominare, sì, e che voleva illustrare dei prodotti. I miei capi, io ero un ingegnere giovane a quell'epoca, erano tutti impegnati, allora mi dissero parlaci tu che questo qui c'ha l'età tua, può darsi che vi capito, eccetera. E mi presentò questo rivoluzionario, secondo lui, microprocessore a 4 bit, una macchina a 4 bit. Nessuno ci credette minimamente, io ancora conservo gelosamente questo catalogo a livello così di cimelio, va bene, perché sono un appassionato di queste cose, no? Nessuno si rendeva conto di questo e per anni ancora in Italia si andò avanti con i sistemi che avevamo utilizzato sino a quel momento. Ci vollero 7, 8, 10 anni perché uscisse la macchina 8 bit, lo stesso Fagin forse con l'Intel non si trovò poi così bene se successivamente fondò la Zilog Kellogg e realizzò qualcosa un pochettino di più vicino a quello che lui voleva fare, no? Esatto. E da quel momento le cose andarono alla grande, si affermarono i primi diciamo personal computer non sarebbero nati e non sarebbero stati gli stessi se non ci fosse stata l'invenzione di Fagin. Fu un discorso tecnologico, perché come concetto il computer esisteva già, va bene? Riportare tutto su chip fu la grande idea di Fagin, e ancora oggi tutto quello che noi facciamo, giustamente l'ha detto anche Fagin, lo possiamo fare perché lui quel giorno, in quel periodo, riuscì a fare questa cosa, ecco. Sì. Senta Antonino, le faccio una domanda: dopo quanto tempo c'è stato un momento in cui parlando con colleghi o con altre persone ricordò quel primo momento in cui le venne presentato il processore e magari ha detto io questa cosa l'ho vista 7, 8, 10 anni fa? Sì, ma le posso dire che nell'ambiente dove lavoravo io successivamente, adesso non faccio nomi dell'azienda, veniva osteggiata questa cosa, cioè si sapeva che c'era il microprocessore, ma veniva osteggiata la gente che non gli andava forse neanche di impegnarsi a scoprire altre cose, eccetera, e le applicazioni cominciarono con molto ritardo rispetto a quello che sarebbe potuto essere, capisce? Anche la tecnica digitale veniva avversata da gente che era nata, vissuta con la tecnologia analogica, per carità, la tecnologia analogica è bellissima, è interessantissima, però non avrebbe mai superato dei limiti se non ci fosse stato il digitale, non sarebbero mai stati superati, saremmo sempre rimasti a un certo livello. Quindi queste invenzioni, queste novità venivano osteggiate dalle persone che in quel momento avevano un livello gerarchico, va bene, superiore al mio, e credo che un po' la storia si ripeta anche adesso, insomma. Sì. Comunque, ripeto, prima che in quell'azienda dove io lavoravo, che poi cambiai azienda, certamente entrai in una grande azienda di telecomunicazioni, lì prima che si potesse avere un'applicazione dello Z80, che è il primo microprocessore 8 bit, diciamo, che fu fatto, costruito da una società fondata da Fagin, ci vollero 8-9 anni. E comunque appariva solamente in certi reparti, in molte altre aree dell'azienda venivano utilizzati altri sistemi ancora. La lentezza della comprensione per l'innovazione. Antonio, la ringraziamo per la testimonianza molto precisa, puntuale. Effettivamente, questa le faccio l'ultima domanda prima di salutarla. Effettivamente anche lei si sarà accorto che purtroppo Fagin non è così conosciuto. No, io lo conoscevo, per carità, noi quando uscì lo Z80 eravamo tutti lì a vedere cosa avrebbe fatto Fagin una volta che era uscito dalla Intel. Oggi nessuno si ricorda più di lui. Esatto. Grazie e buon ascolto, buon lavoro. Anche a lei, buona serata. Buon weekend. Prima c'è il weekend, poi c'è il lavoro. Certo. Perché noi lavoriamo sempre anche nel weekend, quindi per quello che io dico. Gianfranco, vuoi aggiungere qualche cosa? Se no, velocissimamente, questo ricordo di Antonino mi ha fatto venire in mente che quando nel 1981 IBM presentò il primo personal computer e su internet si possono trovare facilmente ancora gli annunci stampa, proprio il comunicato stampa di IBM, molti ambienti in IBM osteggiarono questo lancio, perché IBM era impegnata nei super computer dipartimentali delle stanze intere, no? Una macchina così piccola, e secondo alcuni studi IBM aveva pensato di venderne un qualche migliaio di pezzi. No, questo è la nascita del personal computer. Evidentemente molte volte proprio il nuovo spaventa anche gli addetti ai lavori molte volte. Bene, c'è il traffico, riprendiamo fra circa un minuto. 2024. Le 16:46 minuti, questo è 2024, riprendiamo. Io vi consiglio sempre di abbonarvi al nostro servizio podcast per scaricare settimana dopo settimana il file MP3, anche per poi inviarlo, spedirlo, segnalarlo ad altri ascoltatori, che ne so, ai politici, che forse così, anche se insomma parliamo in un weekend in cui dovrebbero cambiare parecchie cose. Mario da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, fate un'opera mondiale. Addirittura, sì, perché è veramente eccezionale il fatto che, essendo un italiano, Federico Fagin, se uno va a guardare su internet la storia del PC, non c'è, non c'è niente. Infatti ho cercato di anche contattare altre persone, perché il vero creatore del personal computer, se non ci fosse stato Fagin, ci sarebbe stato un altro. All'epoca c'è stato Federico Fagin e lui ha dato la possibilità di crearmi il microprocessore. Però attenzione, non bisogna dimenticare, naturalmente lui è stato il creatore, l'inventore, perché è una parola che si dice, ma lui non ha inventato, no, Fagin ha inventato il microprocessore. E però subito dopo, perché già nel 75-76, Gary Kildall, che adesso si dice che Bill Gates è ricchissimo, lui viaggiava già in aereo, quando Bill Gates gli ha sottratto, va bene, la possibilità di inserire il suo CPM nel primo personal IBM, Gary Kildall è stato l'inventore del primo sistema operativo per microprocessori. Sì. Sono d'accordo, però diciamo che oggi io ho avuto l'opportunità di intervistare Federico Fagin, ho proposto questa intervista e la finiamo lì quasi quasi, insomma, poi se continuiamo con la storia, lei ha ragione Mario, insomma ci sono tante altre persone che andrebbero ricordate, sicuramente insomma cercheremo di farlo nel corso degli anni. Però le dico solo una cosa, adesso non so quale testo della storia di internet, del computer lei si riferisse, di sicuro al museo del computer che c'è a Mountain View in California, che insomma, è vicino a Santa Clara dove c'è l'Intel, la fotografia di Federico Fagin tra le tante, mi pare che sia l'unico italiano, c'è, quindi almeno da questo punto di vista. No, ma certamente ci mancherebbe, sicuramente condivido quanto lei sta dicendo, però dico, uno, io ho cercato così perché insomma ho 70 anni come Federico, lui è di dicembre, io sono di ottobre, quindi strumenti che per lui ovviamente sono sempre stati naturali, per me io ho lavorato, ma quello che forse sono d'accordo, mi riferivo alla storia su internet, che praticamente difficilmente nei vari link è stata fuori sia Fagin che Gary Kildall. Perché? Perché è stata fuori sempre Bill Gates, è stata fuori sempre, sempre Trump, soliti, cioè, oppure sì. Tutta la compagnia della classe del 55, quindi 14 anni dopo, e ti si dimentica in tutte queste ricerche storiche che si fanno, persone che scrivono, persone che sono attualmente ancora vive, va bene, vegete, bravissime, e ho scritto su Facebook un complimento per Federico perché lui è parla un italiano che non lo so veramente, che non sembra nemmeno che sia stato tanti anni negli Stati Uniti. No, è perfetto, è una persona, insomma, va bene. A parte questo, io volevo appunto giustamente sottolineare un'altra cosa. 30 secondi. Sì, 30 secondi. Nel 1980, tramite il microprocessore 8085 dell'Intel e successivamente con lo Z80 di Bruno Fagin, è stata automatizzata interamente, digitalizzata una cementeria, non dico di quale ditta, ed è tuttora funzionante ovviamente su certi reparti perché ormai è roba di tanti anni fa. Dopo 10 anni io ho automatizzato anche un biscottificio, in quel biscottificio ci sono ancora dei dispositivi realizzati con l'8080 tramite il Politecnico di Milano e che funzionano attualmente, quindi funzionava. Mario, io la ringrazio per la testimonianza, le auguro buon weekend, buon lavoro. Altrettanto voi e complimenti per la trasmissione perché grazie siete ancora. Molto bravi. Grazie ancora, buon molto serata. Gentile, molto gentile. Oggi Gianfranco abbiamo fatto un po', possiamo dirlo, avvisiamo il nostro pubblico, un po' uno strappo alla regola perché di solito non parliamo tanto di storia. No, infatti. Ci limitiamo a raccontare come cambia. Qualche volta parlare di storia serve per riuscire a prevedere meglio quello che accadrà, perché in realtà poi la storia ci insegna precisamente quali possono essere corse e ricorse. Abbiamo visto che la Silicon Valley è riuscita a eternarsi, ma per esempio il destino del Giappone elettronico forse è già segnato se non inventano, se non si reinventano. Ah, tu sul Giappone sei piuttosto negativo perché più di una volta ti ho sentito dire. Forse perché vedo gli altri paesi molto, molto frizzanti. La Corea è molto frizzante, direi anche che lo è stata già da molti anni. La Cina è impressionante in questo momento e chi dice che dalla Cina arrivano soltanto cinesate vuole difendere a tutti i costi le produzioni non cinesi e vuole giocare sui luoghi comuni, ma probabilmente non è mai stato a vedere come si produce in Cina. Senti, se è vero, ma immagino che sia vero, che nella fascia di stati vicini alla Germania e all'Austria, quindi Polonia e tutti quelli che stanno lì attorno. Visto che oggi, ancora oggi la manodopera è a basso costo e quindi si stanno spostando alcune industrie, questo potrebbe essere un beneficio per l'industria tecnologica europea o siamo spacciati? No, no, assolutamente sì, potrebbe segnare il ritorno di una competenza europea, perché non scordiamoci che poi le aziende sono fatte di persone e le persone oggi, chi vuole lavorare in ambito tecnologico, il più delle volte è costretto a emigrare in paesi lontani e quindi Stati Uniti oppure Estremo Oriente. Se rinasce un polo di competenze, sicuramente è una cosa molto importante. Probabilmente proprio perché nessuno può aspirare magari dall'Italia andare a vivere in Polonia con i salari polacchi, probabilmente quei paesi già molto industrializzati come, o ex industrializzati potremmo dire, come Italia, Francia, Germania, Regno Unito, sono forse destinati a rimanere fuori da questo giro. Saranno un mercato in quanto consumeranno questi prodotti, però potrebbero non far parte di questa nuova rinascita europea dell'elettronica. Bene, io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi. Prossimo viaggio in programma, lo diciamo già adesso perché ne parleremo tante volte. Prossimo viaggio in programma, Las Vegas, Consumer Electronics Show, nella seconda settimana di gennaio. E da lì su. Dovrebbero arrivare un sacco di novità, almeno così tutti da dicono. Da lì arrivano un sacco perché di novità. Tu mi hai raccontato all'IFA di Berlino che non c'erano tante novità perché tutti aspettano gli Stati Uniti, giusto? Sì, quest'anno è un anno difficile, negli anni difficili ci si compatta e si cerca di lanciare le novità in un solo momento nell'anno. Questo forse è un primo segno di rallentamento è una buona notizia. Del progresso tecnologico, non del progresso tecnologico, ma del lancio sul mercato. Della gestione di del lancio progresso, sul mercato, sì, sì. E quindi il pubblico avrà più tempo per digerire le innovazioni. Bene, ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro, a presto, ciao. Grazie mille. E buon weekend. La prossima settimana parleremo, ve l'ho citato più volte, il podcast. Parleremo di podcast, che può sembrare una cosa strana, però il podcast sicuramente nel medio-lungo periodo, non fra due mesi, rappresenterà un futuro molto interessante per la radio. Già oggi molti vengono scaricati dal sito internet di Radio 24 migliaia di file dei nostri programmi, quindi già oggi ci stiamo spostando molto lentamente, insomma rappresenta una percentuale minima dei nostri ascoltatori, però insomma qualche cosa sta cambiando. Allora parleremo di podcast, raccontandovi anche come si fa a fare un podcast e parlando con in modo particolare una persona che si è inventata un podcast personale. Potete scriverci durante questa settimana al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Vi ricordo la nostra pagina Facebook per discutere dei temi della nostra trasmissione durante la settimana, cercateci scrivendo 2024. Grazie a Roberto Scaltritti che si è occupato della parte tecnica, Alessandro Balia e Anita Panizza in redazione. Io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Radio 24, il sabato nel pomeriggio tra le 15.30 e le 17. Buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024.